Secondo appuntamento della settimana con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli ad augurarvi il benvenuto, la buona serata. L'appuntamento del martedì, replicato poi il giovedì, offerto come sempre da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Saluto e ringrazio come sempre il nostro validissimo autore Simone, che ha preparato la tracklist della prima parte, e poi nella seconda parte incontro con la formazione dei Macbeth. Avremo modo quindi di ascoltare le canzoni, e tre brani che fanno parte del loro nuovo album, sentire come l'hanno realizzato e i progetti futuri, i vari concerti che arriveranno. Iniziamo comunque con questa formazione che si chiamano Saint Demon. È stato pubblicato lo scorso weekend sull'etichetta Frontiers Record l'album d'esordio per questa nuova band composta da quattro elementi, arrivano, manco a dirlo, dalla Svezia. Propongono un buon metal melodico. Gruppo creato dall'ex batterista dei Dionysus. Per completare la formazione hanno reclutato il bassista della stessa band, mentre per il ruolo di cantante hanno cercato su internet e hanno trovato un vocalist norvegese, un certo Jan Tore, che avevamo già apprezzato negli Highland Glory. A line-up completata ingaggiano il produttore Jens Berggren, noto per il suo lavoro con Hammerfall, Opeth e Symphony X. Per quanto riguarda il leader e fondatore Ronny, ha collaborato ad un paio di tracce della recente produzione dei Primal Fear, oltre ad aver partecipato alla composizione del singolo Glorious per i passati mondiali di calcio, che ha raggiunto la settima posizione nelle classifiche svedesi. Con loro apriamo il nostro appuntamento, ripeto, si chiamano Saint Demon, l'album si intitola In Shadows, Lost from the Brave, il pezzo è My Heart. L'esordio di questa sera di Arden Devi avviene con i Saint Demon, direttamente su Frontiers Record, l'etichetta nostrana di Napoli, che ha pubblicato da poco questo In Shadows Lost from the Brave, dal quale abbiamo proposto le note di My Heart. Un album invece che è uscito da poco, con lui presente insieme a Claudia. Qualche settimana fa abbiamo presentato questo The Scarecrow, il terzo progetto del cantante Tobias Sammet degli Edguy, con il progetto Avantasia, si intitola appunto The Scarecrow. Progetto che nasce nel 2000 quando pubblicano il primo The Metal Opera, che vedeva la presenza di prestigiosi ospiti, soprattutto cantanti. Nel 2002 c'è la seconda parte del concept, cioè The Metal Opera Part 2, con altri ospiti, che arriva al numero 17 in Germania ed in Svezia. Nel 2006 è stata quindi annunciata la preparazione di questo terzo album, un nuovo concept staccato completamente dai due precedenti. Anche in questo caso, come da tradizione, abbiamo dei grandi special guest: Oliver Hartman at X Advance, Roy Ken dei Camelot, John Land ex Masterplan, Bob Catley dei Magnum, Michael Kiske ex Halloween ed Alice Cooper, questo tra i cantanti. Alle chitarre ci sono Kay Jensen e Henio Richter, entrambi dei Gamma Ray, Rudolf Schenk degli Scorpions e Sasha Path. Alla batteria c'è Eric Singer dei Kiss, niente male come nome. Andiamo ad ascoltare le note di questa Shelter from the Rain dal progetto Avantasia, The Scarecrow, il titolo dell'album. Turning straight ahead. sempre gran classe in questo progetto Avantaggia. Alle spalle c'è il cantante Tobias Sam degli Egal con una stuolo incredibile di special guest che vi ho citato in precedenza. Abbiamo ascoltato le note di Shelter from the Rain. Proseguiamo con la prossima band. Si chiamano Paradox. A 8 anni dal precedente lavoro è uscito da un paio di settimane questo nuovo lavoro dal titolo Electrify. Loro sono una thrash metal band tedesca nata a metà degli anni 80, ma anche se di album ne hanno pubblicati solo 4, compreso quest'ultimo. Leader e fondatore è il cantante chitarrista Charlie, che insieme all'ex batterista aveva creato il gruppo nel 1986. Grazie ad un demo catturano l'attenzione della Roadrunner Records, che li mise sotto contratto e che pubblicò l'esordio nel 1987. Il successivo Heresy arriva 2 anni dopo. Segue un cambio di etichetta a favore della AFM Records, che ne ha pubblicato il terzo album nel 2000, che vedeva il cambio di chitarrista e della sezione ritmica a favore dei bravi fratelli Holzwarth. Dei Seagulls Even seguono purtroppo dei lutti familiari e al leader Charlie, che decide di mettere da parte la band sino al 2005, quando ricrea i Paradox con una nuova sezione ritmica. Finalmente il 10 gennaio è uscito questo Electrify, che si compone di 10 tracce mixate e masterizzate da Jacob Hansen presso i suoi studi in Danimarca. La band ha reso noto che intraprenderà anche un tour europeo con i Mekong Delta intorno al mese di aprile, ma ad oggi non sono ancora state rese note né le date né le location. Li andiamo a proporre ed ascoltare con Infected, che è anche il singolo estratto da questo nuovo album, Paradox. Paradox, il nome della band, riformatasi con questo album nuovissimo dal titolo Electrified, al quale abbiamo ascoltato Infected, band di thrash metal tedesca. Arriviamo anche per questa sera all'immancabile appuntamento con le Metal News. Parliamo di Scott Wainwright, ex cantante e chitarrista degli Osepsed e dei St. Vitus. Sta preparando un album solista che uscirà alla fine del 2008. Hardcore Superstar. Nonostante la band svedese abbia vinto uno Swedish Metal Award come miglior hard rock band, il chitarrista Thomas Silve ha lasciato il gruppo. La separazione è avvenuta in modo amichevole e la band sta attualmente cercando un nuovo chitarrista. Problemi anche con gli Hanoi Rocks. In effetti la band finlandese hanno fatto trapelare che alla fine del tour europeo si separeranno dal batterista Laku. Il nuovo batterista comunque verrà presto presentato. Primal Fear, la band tedesca di Ralph Schippers e Matt Sinner, torneranno in Italia in occasione del 10° anniversario. La data scelta è il 21 giugno in un festival che si terrà a Moraro in provincia di Gorizia, chiamato Mora Rock Festival. Parliamo di Dominici, pronta la terza parte della trilogia per l'ex cantante dei Dream Theater. Si intitolerà Zero Free e Trilogy Part 3 e l'uscita è prevista per la tarda primavera tramite etichetta Inside Out. Far Wind, ormai pronto il nuovo album per la band greca del chitarrista Gus G. Il titolo è The Premonition, uscita 24 di marzo su Century Media. Per quanto riguarda la lineup sono confermati il batterista Mark Cross e l'altrettanto bravo cantante Apollo Papatanasio. Riguardo ad Apollo, ha preso parte al progetto Bass Invaders del bassista degli Halloween Marcus Groskopf. Si tratta di un album di heavy metal senza chitarre, assolutamente senza chitarre, solo basso, batterie e voce. 14 tracce, le quali una è la cover degli Halloween, cioè Eagle Fly Free. Oltre ad Apollo ci sono vari special guest. Alla voce c'è P.V. Wagner dei Rage, Schmier dei Destruction, Tom Anger Ripper dei Sodom. Al basso c'è Dennis Ward, c'è Billy Sheehan, Marco Mendoza, Joy Vera, James Baker dei Gravedigger, Dirk Schlachter dei Gamma Ray. Alla batteria Stefan Hardold dei Gravedigger e Andrei Hilgers dei Rage, Axis e Silent Force. Ed è proprio dal loro album che andiamo ad ascoltare le note di questo motivo, dal titolo Far Too Late. Children die. It's this war scenario to scare us so. They took our freedom to make money now. Where do we go? It's far too late. Tutte le parti che sentite di riff sono fatte col basso, assolutamente non vi sono presenti chitarra in questo lavoro, non per niente il progetto si chiama Bass Invaders. E chiudiamo il nostro appuntamento, la prima parte, poi nella seconda Macbeth con noi, con il Leverage, uscito lo scorso weekend, secondo album per questa band di 5 elementi che propongono dell'ottimo melodic metal, arrivano dalla Finlandia, si chiamano Leverage, avevano già inciso un album in precedenza, sono stati tutti e due ristampati, sia il precedente che naturalmente questo nuovo, prodotto dalla Frontiers Record. Il pezzo che vi propongo si intitola Storm Child, dall'album Blind Fire, Leverage. Eccoci, come già annunciato, nella seconda parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy per questa sera, dopo aver presentato diverse volte alcune tracce di questo nuovo album che porta il marchio dei Macbeth, Super Angelic Hate Bringers, un album che è uscito alla metà del mese di novembre. Qualcuno di voi si ricorderà in effetti il singolo che abbiamo presentato diverse volte e che andremo a proporre anche più tardi nel corso della nostra intervista, perché abbiamo ascoltato le note di Hate, questo brano, che ci permette di entrare in contatto sia con Fabrizio, correggimi se sbaglio, il tuo strumento è la batteria. Meno male, non ho sbagliato. Nonché alla voce, questo è semplice, Morena. Ciao Morena. Ciao. Allora, per la prima volta, perché di solito 2 anni fa con il precedente album c'era Fabrizio, questa volta l'abbinamento di voce e batteria. E allora parliamo di questo nuovo album. Non ho sbagliato dicendo che era uscito a metà di novembre. Esatto. Ecco, siamo nel mese ormai quasi di febbraio, metà di gennaio, però avete svolto buona parte della promozione di quest'album, quello legato alla stampa, come prassi. Ora toccano le radio, tocca anche a noi, questo mi fa solo piacere. Seguendo, diciamo, la vostra discografia, c'è una differenza nell'evoluzione da quello che è stato il primo album sino al precedente, mi fermo a quello, e invece tu mi dirai se anche in questo nuovo lavoro segue l'evoluzione globale di tutta la vostra storia musicale o se ha dei riallacci al precedente lavoro. Potete naturalmente sbizzarrirvi entrambi sulla risposta. Beh, dunque sì, come dicevi tu, c'è un'evoluzione, si vede in modo particolare tra il primo disco, che è del 98, e Male Artes, appunto, il penultimo. Lì vediamo sì un'evoluzione a livello di sound, si riesce a seguire dal primo al terzo disco. Certo. Con il quarto io mi sento di dire che sia la bella del terzo disco, nel senso che abbiamo appreso delle cose negli anni che poi abbiamo messo in pratica con una produzione che effettivamente è migliore. Parli di produzione oppure produzione, ma contempla anche mixaggio piuttosto che le liriche, esatto. I testi, quindi il testo di canzone, la musica, tutto. Quindi il prodotto finito. Sì, sì, in modo particolare la produzione a livello di registrazione, masterizzazione e tutto il resto, che senza dubbio è migliore rispetto ai dischi precedenti. E poi, come si diceva, a livello di songwriting, comunque la parte che riguarda noi, quindi testi, musica stessa, eccetera. Esatto. Quindi vi trovate concordi. Sì, sì, assolutamente. Ecco. Per quanto riguarda il titolo, titolo Super Angelic Hate Bringers, dove hate poi è evidenziato in colore rosso, e poi parleremo magari di questa caratteristica dei colori. Ho preparato una domanda a riguardo. Ecco, è una contrapposizione tra gli angeli e l'odio. Cosa si nasconde dietro la scelta di questo titolo? Se si nasconde qualcosa, poi magari mi dici non si nasconde nulla. No, si nasconde qualcosa, e poi tra l'altro è tutto collegato anche alla copertina. Ecco. Quindi non è nulla, è stato fatto a caso, e niente, noi volevamo semplicemente esplicare che da un viso d'angelo ti puoi aspettare delle cose cattive, e viceversa, magari da un aspetto brutto invece si nasconde in realtà un angelo. Quindi la mela è la classica tentazione, esatto, il peccato, giusto? Esatto. La interpretiamo sotto questo aspetto. Esatto, sì, oh. Sì. Ok, ci siamo su questo. In effetti, una domanda, visto che ci siamo, stiamo parlando della copertina, proprio che come il precedente ci sei tu appunto con, con la mela in mano, una nota magari, lo sapete anche voi, anche gli Epica avevano effettuato nel penultimo album, però era più un disegno che una foto, eccetera, mi sembra di ricordare da quel punto di vista. E quindi c'è proprio, come dicevi, un'attinenza tra tutta la foto della copertina e il titolo, stesso. Una sorta di tentazione, insomma. Che poi si riproduce anche nei vari brani dell'album. Esatto. C'è una coesione in questo, anche se non, suppongo non sia un concept questo. No. Sono tutte singole storie, singole canzoni. Esatto, sì. Sono, diciamo che per la prima volta questo album è stato prodotto anche a livello di songwriting, basandoci su temi attuali. Quindi non più fantasy, non più storie riallacciate a libri di eccetera eccetera. Esatto. Quindi si va da Don't Pretend fino a The World in My Mind, dove si parla dell'attualità, e quindi non si parlerà molto bene, penso, cioè delle cose che succedono nel mondo dici attualità. Esatto, poi no, poi anche perché noi siamo stati in Turchia, in Messico, abbiamo fatto una data in Libano e quindi hai visto anche le situazioni di quella popolazione. Esatto, quindi è nato spontaneo, sono nati spontanei così i testi. E il tema anche dell'album, del titolo e la copertina. Ma se devi fare un sunto alla fine, traspare un qualcosa di positività, c'è una via oppure è un po' difficile? Perché allora, sicuramente nei racconti magari delle liriche, delle canzoni stesse, purtroppo se porti ad esempio quelle popolazioni, guerre che ci sono nel mondo, carestie, problemi legati a droghe, adesso non so, sto andando a tutti i mali del nostro mondo... Sicuramente non pensi di poter dare una soluzione, perché sennò saremmo veramente almeno il mago Merlino, eccetera. Però secondo te c'è una via d'uscita? Traspare qualcosa di questo nelle canzoni, o è solo una narrazione di cosa che voi avete visto direttamente? È una sorta di narrazione, e nella speranza che qualcuno possa fare prima o poi la scelta giusta. C'è una narrazione filtrata, diciamo. Esatto. Siccome sono testi, sono idee personali, per cui... Certo, la vostra interpretazione comunque, di quello che avete visto. Ecco. Bene, allora, dicevo prima, a proposito dei colori, sin dall'esordio delle vostre copertine si basano su colori primari che sono il nero, il rosso e il bianco, che non sono quelli della stampa, di solito le stampe c'è il ciano, eccetera, cose tecniche, queste quindi sono nero, rosso e bianco. Così anche nel video di Without You, ci sono dei significati particolari legati a questi tre colori? Magari è venuto spontaneo. Ma sono colori a cui siamo affezionati, nel senso, probabilmente a gusti ci ritroviamo. Okay. E penso che siano tra i colori che meglio stanno tra di loro, per cui sono molto contrastanti e comunicano abbastanza. Sono colori forti, comunque, per cui. Quindi la scelta è su questo, sul fatto. I predominanti sono quelli. Bene, abbiamo ascoltato Hate. Ecco, a proposito di quella canzone, se non sbaglio, Hate sta per, visto che è puntata. H? No, sta per Hate da leggere meglio. Ok, come non detto, facciamo il passo indietro. Abbiamo citato il video di Without You. Noi siamo una radio, non lo possiamo vedere, ma molti l'avranno già visto, eccetera, eccetera. Ce lo andiamo ad ascoltare. Il brano, appunto, sentito Without You, primo singolo. Poi, magari, non so se discograficamente parlando, avete in previsione di preparare un secondo video, quindi il cosiddetto secondo singolo. Guarda, ci stiamo pensando, in realtà non ci siamo ancora arrivati, perché già la scelta per il primo è stata difficile. Cioè, ci sono diversi pezzi. Alla fine l'avete scelto voi, o ve l'hanno un po'? No, in realtà siamo parecchio liberi da quel punto bello di vista. Questo. Sì. Bene. Allora ce lo ascoltiamo. Without You sono i Macbeth nel nostro spazio di Arden Devi. we have learned from our bad dream is that no one will ever know why a smile is so fragile. Our world can make you cry. I've been searching in my soul. Just wanna disappear. When my love still remains, I've been searching in my soul. Abbiamo ritrovato e ascoltato le note di 8 in apertura, il nostro, se soltanto voi adesso avete acceso la radio, il nostro colloquio con Fabrizio e Morena di Macbeth. Abbiamo ascoltato Without You, primo singolo, entriamo a parlare, un po' l'abbiamo citato, no? Gli argomenti in pratica, sì, io poi ho creato una lista di domande e poi già siamo andati a toccare diversi temi, magari giriamola in questo modo: qual è il brano che, terminato l'incisione eccetera dell'album, sentite maggiormente sia nell'interpretazione quando sei sul palco, perché magari dai, adesso non so, Morena in un determinato modo, Fabrizio in un altro, potrebbe essere concorde la scelta, potreste dirmi beh tutti vanno bene, eccetera eccetera, quale sei più legato e lo senti di più quando lo interpreti? Beh, sì, fondamentalmente sentiamo i brani allo stesso modo, nel senso che questo disco, a differenza degli altri, è molto, molto live, nel senso facilmente riproponibile dal vivo e molto aggressivo. Per cui dal mio punto di vista, appunto da batterista, direi non c'è un pezzo che non è rifattibile dal vivo con la stessa grinta. Per ok, cui, anzi qualunque. Qualcosa in più di solito si cerca di mettere. Esatto. Ecco. Invece per te Moreno magari che devi interpretare il brano e quindi cantarlo. Allora io ho dei pezzi, vabbè è stato difficilissimo decidere la scaletta di questo CD. Però ci scaletta sono... per l'apposizionamento? Esatto. Oppure... Sì, sì, per l'apposizione. Oppure per dover escludere alcuni, alcuni brani. Quelli ci, ci sono. Quelli ci sono. Sono tutti i motivi. Però quando devo farli dal vivo, ce ne sono due in particolare che sento. Ti emozionano e... di sì, più, insomma. Che sono Don't Pretend. Sì, che è quella che apre l'album, tra esatto. parentesi. E di che cosa lì, che cosa si va a parlare? Si va a parlare scrivi tutti tu le liriche? No, o no, no. Lui è l'ultima invece, The World in My Mind, è mia. Ok. Si parla sostanzialmente di libertà, cioè nessuno deve pretendere di essere l'angelo custode di nessuno, cioè ognuno deve andare avanti con le proprie gambe, con le proprie forze, certo. E questo è sostanzialmente questo poi, è il primo brano. Esatto, secondo... tra l'altro uso anche una particolare la voce abbastanza rauca nelle strofe, quindi lo sento proprio che lo è aggressivo. Senti, devi proprio esatto. impostarti in quel modo, devi forzarlo. Esatto. Il e poi Eight. Eight, che è quella che abbiamo esatto, ascoltato in, sì. in precedenza. Ecco, quando avete cominciato a scrivere le canzoni di questo lavoro? Già da tempo, quindi sì, avete fatto sì. ormai, come dicevi tu, c'è stata un'evoluzione, quindi siamo diventati più bravi in questo. C'è stata tutta una preproduzione prima di entrare nello studio? Sì, diciamo che è stato molto razionale il lavoro da questo punto di vista. Abbiamo lavorato parecchio su computer, per cui già sapevamo prima che tipo di effetti richiedere, cosa volevamo, insomma. Certo. La fortuna è stata, per questa volta, trovare uno studio che avesse le possibilità. Per cui... I studi ne avete usati più di uno? Sì, sì. Siamo, abbiamo fatto il lavoro in tre studi differenti. Abbiamo tutti fatto... in Italia comunque? No, uno è in Islanda, uno studio privato islandese. Sì. Questo per delle parti particolari di uno strumento oppure sì. per... Per le parti di synth in particolare, okay. synth e tastiera arrivano da uno studio privato lì. Il resto è stato fatto ai News in Studio, la maggior parte del lavoro. Il top sì. quasi delle, esatto. per l'Italia di questo per il genere, esatto, per il genere sicuramente. E abbiamo fatto delle parti di percussioni che ci sono in alcuni brani al Massive Art Studio qui a Milano. Comunque sì, sì. nella globalità, un po' l'hai anche toccato tu questo tema, rispetto ai precedenti lavori, i suoni sono un po' più carichi, più grintosi, sì, certo. più accentuati. Più un po' sì. più heavy su questo. Sì, voluto oppure è venuto naturale quando avete scritto le musiche? Ma un po' tutte e due, diciamo che il tipo di riff, di ritmiche che abbiamo quindi impostato. Quindi c'è già stato l'approccio sì. così. E poi ovviamente la produzione che è migliorata, c'è una masterizzazione differente, un lavoro differente che ha dato la possibilità di avere il prodotto che cercavamo. Che cercavi. Questa sì. è una domanda a te che sei il colui che ha traghettato dagli inizi sino ad oggi la formazione dei Magda, cioè sì. 10 anni fa in occasione del vostro debutto la vostra etichetta vi definiva come, cito, un gruppo di cantori dell'oscurità arcana. Oggi... Posso ridere? Adesso ridi pure. Riporto pari pari, ti ricordi Fabrizio? Sì, no, no, mi ricordo. Anzi andrò a riguardarmi stasera al flyer quello dell'epoca del 98. Quindi oggi cosa cambieresti? Tutto? Cancelleresti questo? No, ma credo cancellare non vada mai bene, comunque, cioè si costruisce. Se andava bene all'epoca presente, sì. c'era un perché, naturalmente. Esatto, sì. Si costruisce il presente sul passato. Mattone dopo mattone, per logico. Forza ci vuole. Beh, direi che non calza più la definizione, nel senso 10 anni sono 10 anni. Tutt'altro, sì, sì. Quasi è quasi stretta l'etichetta di Gothic, nel senso che è un genere talmente ibrido che prende e pesca un po' da diversi. Lo era all'inizio, ambiti. In effetti all'inizio lo era il primo sì, album. Adesso siamo veramente quasi puro, direi. Come anche diceva Morena, molto più heavy, quindi altre sì. situazioni. Ma questo io ci terrei a dirlo, anche perché all'interno del gruppo sì? ciascun componente ascolta generi anche diversi. Differenti. Magari non propriamente legati a questo, al mondo esatto. che voi andate a proporre esatto. sul palco e nella vostra musica. Soprattutto. Questo serve comunque. Eh sì, serve tantissimo. Come musicista serve. Serve tantissimo. Tantissimo. Hai citato che siete già andati all'estero, Messico e in Libano, giusto? Sì, Beirut. Beh, lì è stata proprio forse una toccata e fuga sì, come sì, pochi sì, giorni. Messico invece è stato un tour vero e proprio. Che cosa vi ha portato? Beh, un po' mi hai risposto perché hai attinto per trovare le liriche delle canzoni che fanno parte. Però penso che per una band dire sì, vado all'estero finalmente a suonare, proporre la mia musica, era naturalmente distribuito il lavoro. Sì, sì, sì, assolutamente. La gente è accorsa, o eravate titubanti, la paura di salire sul palco, come mi trovo? A parte che siete andati in un paese latino, quindi magari alcune attinenze con l'Italia ci possono essere. Sì, infatti i latini sono fantastici. C'è stata un'accoglienza calorosa e tutto. Inaspettato, inaspettato veramente. E anche come organizzazione, perché noi ci lamentiamo sempre di tutto quello che è l'organizzazione italiana. Guai, guai. ti chiedo. Chi parla male dell'organizzazione messicana. Perfetta. Impeccabile. Vabbè, questa allora è una cosa da dire. Effettivamente si parla spesso riguardo quei paesi dicendo, vabbè, che sono il terzo mondo dal punto di vista musicale. In realtà eccetera. Stiamo parlando di qualcosa veramente avanti rispetto ad alcune nostre. Cioè, siete rimasti a bocca aperta. Siete magari partiti, vabbè, quello che mi trovo, visto le esperienze che ho già in Italia, chissà cosa mi troverò là. Stessa cosa, anzi, meglio per il Libano. Addirittura. Ovviamente, sì, si parla della parte ricca, diciamo, tra virgolette, di Beirut. Quindi è un quartiere parte della città, parte, sì, che non sì, vedi sì mai rispetto ai vari telegiornali. No, che lo vedi, però lo associ di più probabilmente all'Arabia, okay, comunque agli Emirati, esatto, eccetera. Ah beh, quindi proprio un altro mondo. Sì. E lì ovviamente l'organizzazione era al top, per cui la gente quindi è stata fredda, calorosa, la gente conosceva molto, le canzoni. Molto calorosa e conosceva le canzoni. Per il Libano è stato addirittura inaspettato, perché sì, si parla di oltre 3.000 persone, per cui caspita, quindi anche noi non un club, esatto, o una discoteca piccola, un locale piccolo. Era un'arena, no, un'arena. Sì. Un'arena. Bella, quindi anche come location, sì, sì, eccetera. Sul mare, per cui è stato al tramonto, così, magari, sì, meglio di così. Pure un po' di un tocco di romanticismo. Esatto. Stiamo parlando di date dal vivo. Una è alle porte, si parla dell'Italian Gods of Metal del 2 marzo e mi sembra anche un tour in Inghilterra. Yes. Sì. Allora, innanzitutto, prima di spiegarmi tutte le date, perché poi si perdono, allora andate al vostro sito che è www.macbeth.it. Ecco, lì trovate tutto. Tutto. Okay. Quindi tra cui anche il tour, le date. Però adesso entriamo nello specifico. E anche il link alle nostre pagine di MySpace. Ah, ecco, quindi ci terrei a... Lì ci sono tutti i link. Dedicate un tot della vostra giornata ogni 2 o 3 giorni anche a questo? Perché non è facile dietro. È impossibile. È veramente, infatti. Almeno una volta a settimana. E diciamo, una volta a settimana, così ci vanno, no? Se qualcuno punta le pagine personali nostre, può anche essere che abbia risposte nostre. Su quelle del gruppo, insomma, è già più difficile. Perché si disperde. Effettivamente sono parecchie le richieste. E non è facile. Cui, no. Non è facile. Quindi, la prima data, o forse ce ne sono alcune prima del 2 marzo? Sì, mi sa di sì. Allora, ci sono, dunque, la prossima data è il 25 gennaio. Di gennaio. Dove andrete? Siamo all'Ombelico. Con gli Exilia. Ah, sì. Amici Exilia, che è situato in che città? Provincia di Como. Provincia di Como. Tavernario. Provincia di Como all'Ombelico. Sì. Quindi ci sarà questa accoppiata vostra. Sì. Il quella 25 di gennaio, questa. Esatto. Venerdì prossimo. Venerdì, è vero. Poi abbiamo il 24 febbraio, se non sbaglio, è Dark Fest all'Estragon di Bologna. All'Estragon di Bologna. Con Catatonia. Ok. Un abbinamento che sta a tema. E altri gruppi europei ci sono. È proprio un festival. Sì, dovremmo rappresentare l'Italia in un festival. Ho capito. Ok. E poi abbiamo il 2 marzo, appunto, l'Italian Gods of Metal qua all'Alcatraz di Milano. Poi abbiamo una trasferta di Morena l'8 marzo. In Grecia. L'8 marzo? L'8 marzo. Ma anche in Grecia è così, tutto adesso mi trovo impreparato, non lo so, magari. Vabbè, comunque, l'8 marzo, una trasferta da sola perché vai a leggere delle poesie, cosa vai a cantare, a interpretare, non lo so. No, c'è un festival con Nightwish di testa, poi ci sono Sodom, diversi gruppi, e c'è un gruppo che fa cover dei Macbeth. Esatto. Per cui sarà ospite greco. Di Atene, magari. Esatto. Quindi tu dovrai essere ospite. Mi hanno chiesto. Vabbè, bella questa cosa, bellissima. Sarò l'ospite, esatto. Che figata. Sembra veramente sì, emozionante. Questo ad Atene, quindi. Sì. E poi l'Inghilterra, me la confermate? Sì, oppure assolutamente. No? Questa è una notizia parecchio importante. Infatti, perché è un mercato. Innanzitutto, quante date sono? Sono 10 date il primo blocco, però, sì, e non è male. Grazie ad un'agenzia, questa, la vostra agenzia, eccetera. Nostra e inglese, ovviamente, sul posto. Faremo la parte nord tra aprile e maggio. Primavera, quindi. Sì, sì. Primavera. 24 aprile la partenza. 24 maggio. 3-4 maggio, ok. Puoi citare alcune città, diciamo così. Sì, nella parte nord saranno Liverpool, Manchester, Leeds, Ashton, quindi le città più significative. Top del nord. Poi abbiamo ad agosto la seconda parte del tour, che è la parte sud, quindi con Londra e con Londra le altre città. Posti al chiuso tutti i posti al chiuso in quel caso, sì, tutti i club pur sono. Essendo ad agosto, beh, questa è la prima volta che voi andate su quel terreno, quindi l'album è distribuito, sì. Quindi in bocca al lupo da quel punto di vista. Trepido. Esatto. Bene, allora chiudiamo con un brano che né io mai proposto né lo si ascolta sui vari siti, a meno che non abbiate già comprato l'album. Ricordo che l'album è fuori da metà di novembre, si intitola Super Angelic Hate Bringers. Stanno preparando, ma non si sa quando, sarà un altro singolo oltre a Without You. Chiudiamo con Watch Us Die, e di questo cosa si può dire di questo brano? Sì. Beh, diciamo che probabilmente è più aggressivo di tutto l'album. Sì. Ritmica molto heavy rispetto a tutto il resto, è quindi riff di chitarra, esatto. Belli potenti, molto diverso da quello che facciamo di solito, esatto, quindi anche nel modo del sperimentale, anche molto sperimentale dal punto di vista vocale, quindi questo potrebbe essere un qualcosa che apre delle finestre in un prossimo lavoro, molto probabile. Ok, però dal vivo viene interpretato così, sì. Ok, ringrazio Fabrizio, ringrazio Morena, abbandoniamo appunto il sound dei Magda con l'ultimo brano, ne abbiamo parlato poc'anzi, Watch Us Die. Grazie ancora, ciao ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie.